Alfa Romeo. K, doppio rum. Rum come whisky, dai. Vai piano allora, date una regalata, ecco, buonasera. Buonasera di nuovo a tutti. È la cosa principale è che io non bevo. È assurdo, no? Che mi sia messo questo nominativo, ma avevo un amico che giocava a pallone, aveva le gambe arcuate e lo chiamavano doppio rum, e da lì mi è venuto lo scritto di chiamarmi così. Città di Busto Assisio, la solitaria Michele, capa. Star City, ho ben sentito, Tu invece sei della zona di mio padre, è vicino a Varese, lì, no? Michele, guarda che ti ascoltano, Michele. Noi ti ascoltiamo al 100, quando non c'è il Guarremo ti ascoltiamo bene, dai. E lì mio padre era di Cugion, non sai dov'è. Avanti per la vittoria. Ciu, domani devo andare nel Cagliaritano e devo salutare qualcuno. Forse giovedì devo andare a Cagliari, se ti devo salutare qualcuno. Buonasera Papero, buonasera da solitario Michele in Busto Assisio, Papero. Cosa va per amico Papero? No, Papero lo sta salutando Michele in Busto Assisio. Non è per noi, Papero non lo si sente. Positivo, passo, con le scuse, l'avevo capito male, capa. È sempre un volatile, Michele, buono anche lui. Italia, se ascoltate la nodita punto operatore Alberto Vercelli Italia chiama 11 metri Piemonte, nodita Italia chiama, stazione Alba, operatore Alberto Alto Piemonte chiama cambio. Attento Alberto, se ascolti l'isola della Sardegna, città di Sassari, che ti super cordializza, l'operatore doppio rum, nome Gianni, vai. Ciao Gianni, ciao Gianni, 7351, ben ascoltato, stazione Alba, operatore Alberto, qua in provincia di Vercelli, Alto Piemonte, 50 km qui dal Monte Rosa, Nord Italia qua, Nord Italia, Alto Piemonte, ti saluta Gianni, rapporto per te qui in provincia di Vercelli, Varsesia, 910, 920 il segnale. A te Gianni da Sassari per la stazione Alba, Alberto, Golf Italia Radio 030. In Varsesia Piemonte del cambio. KK, il tuo rapporto segnale Santiago di 7, una radio di 5, poi mi dirai che condizioni di trabacco sì, che apparato, che antenna stai usando, se sei stato come base, avanti. La minchia, qua si a fondo scala. Ok Gianni, copiato il centro, rapporto per te, qua ripeto la mia stazione, ti sto utilizzando in questo momento vengo fuori con un Pluto, è vecchia apparecchiatura, è un'antenna verticale 5 ottavi della Midland, microfono preamplificato ZG Italia, un amplificatore della Biasa 305 montato in stazione fissa. Queste sono le mie piccole condizioni di lavoro nella zona qua di Vercelli, che sto modulando sia 400 metri normale, 2 del Piemonte, ancora Gianni per Alberto qua in Vercelli Piemonte. detto, più o meno anche io sono lo stesso, c'è un vecchio apparato, un Galaxy Saturn Echo, un amplificatore CT-S447 da barra mobile, un'antenna Mantova 5, dai, non so come tu ascolti Antonio, adesso ti faccio, ti passo l'amico Antonio, vediamo un po' se lo ascolti, da Sassari lo stesso, avanti Antonio. Antonio l'amico del Monte, qui alla stazione Mantova Sassari, allora è un modulo con un'antenna, una 2000 turbo, una Marsio, un Intec M550, non so se lo conosci, in la Sardegna non si ascolta molto di sovente qua in Valsesia, qua in Piemonte, noi diciamo che non è molto ascoltabile, però ripeto, l'intero segnale si è alzato notevolmente in vari passaggi precedenti. Bene, ti faccio i saluti, siete per il 51 perché ho paura di non ascoltarti più. Alberto, stazione Alba in Piemonte, provincia Vercelli, città di Borgosesia, primo corso Italia Radio 030, ti saluta per le bande laterali, ti saluta. Il 751, quella familiare, buon inizio di settimana e ci sentiamo alle prossime, ancora a te il microfono, buona continuazione di collegamenti. Alberto qua da Piemonte ti saluta, avanti per te Gianni Sassari. Capo Alberto, forse non era mai che non ascoltavi, forse era Antonio, stava parlando lui. Capo, io ti auguro tutto al 100%, contraccambiati il tutto, mi ha fatto piacere, anche io non è che abbia coperto molte volte quella zona lì, ma diciamo che ci abbiamo speranza adesso. Abbiamo coperto delle zone tipo Cagliari che erano difficilissime quest'anno. Ok, ti ringrazio per il questo, ti auguro una buona serata, buon inizio settimana e buon tutto. Ti saluto anche da parte di Antonio Bombolo, che non so se lo ascolti, perché mi sa che non l'ha ascoltato perché non le ha risposto. E allora vediamo, non so se è infrequente, no, ma forse l'ho sentito, però Gianni c'era un po' di propagazione, viene un po' di tutto in mi è sembrato, perché non sono sicuro che vedo che ho fondo scala, però l'ho sentito, però ovviamente qua sai che purtroppo quando entra fatica da ascoltare, 9:30 segnale, questo lo vedo, di questo per dire se è salito col dire la propagazione, diciamo sia molto migliorata, 9 punti 9:30 qua, 9:30 di più, perciò molto buono, dai. Riguarda la modulazione e l'uscita, funziona sempre al 100%. Se ti rilasci il collega, vediamo se riesco a salutarlo molto volentieri. A te Gianni. Capo, io mi domando perché te ne puoi andare, se arrivano 9:10 adesso. Avanti Antonio. Brava, è qua, in quest'ultimo passaggio, è fatto un passaggio di 9:25 a Radio 5 a Roma. Vuoi vedere se mi senti adesso? Sulla Sicilia, guarda, c'è più stati che dire questo canale. Salutoni, se 351 anche a te, dai, 557, 58, il segnale qua in Borgosesia, no? Ti ascolto decisamente bene, radio molto, molto buona. Poi ripeto, con propagazione su questo canale, poi, se vedi l'eventualità ci spostiamo avanti, canale 45, Io sto usando un Intec 550, una versione buona e lontananza. Antonio deve essere andato via, dai, c'è Como che sta chiamando, avanti Como. È passato, io ti ascolto meglio adesso, Antonio, limite di segnale, un po' di QRM alto, tutto positivo qua. Com'è la Sassari il tempo, fa caldo. Cercando da schiantare. Sono rosso come una ragosta, oggi sono andato al mare, c'era un caldo da morire. Anche qui ha fatto caldo oggi, oggi e ieri pomeriggio, poi ieri sera ha fatto circa un'oretta di acqua e si è rinfrescato un attimino, ma poi oggi moriva di nuovo dal caldo. No, qua tutto di continuo il caldo, sempre caldo di giorno e di notte. Di notte si respira un pochino, ma bisogna andare in riva al mare a fare le passeggiate. Le due Gianni nel senso che sono tutte le vercelle, dite una cosa. A capo vercelle. A farmi un bel diretto, dai, tutto Roger, ho aspettato che calava un po' il caldo, poi sono uscito. Capo, è così che si bisogna fare per evitare di stare in casa a morire in caldo. Avanti Vercelli che mi stai chiamando, ti ho sentito, avanti. Io ok, volevo solo salutare perché Gianni sempre qui al Bergo qua in provincia Vercelli, però propagazione va molto con SB. Saluto anche l'altro collega sotto in frequenza, se mi ascolta, però mi fai 1-9-1-9-30, paura di non fare i saluti ovviamente giusti, doverosi per il collega e per la Sardegna. Io gli faccio 7351 prima che ci perdiamo, non so con che segnale. Salva qua in Piemonte, saluta ancora Gianni con il salutone, ciao, grazie, una stretta di mano, ci sentiamo nel prossimo del cambio. Capo Alberto, dai, stai arrivando con questi sì che parte da 5 arriva a 9, 9, 5. Diciamo che ti ascolto abbastanza bene. Ti saluto di nuovo buon fine settimana e ci sentiamo. Avanti Antonio per i saluti all'amico di Vercelli. Salutone anche da parte mia, Antonio Bruno, molti super cordialità e ce la risentiamo tutta la propaganda. Alla prossima. Ciao Antonio, ti saluto anch'io se mi stai ascoltando, purtroppo ripeto. Saluti, dai, un salutone a settimana, buon inizio la città di Bongosia, 50 km qui dal Monte Rosa, Alto Piemonte, vi saluta e contatto ancora a te Gianni, salutone, un abbraccio, ci sentiamo. Capa, ciao, ci sentiamo, speriamo al più presto. Buona settimana e buon tutto. Avanti, chi è rimasto il voto? Attenzione, binario 45, se ascoltate la città di Sassari, l'isola galleggiante che chiama qua. Ciao, attento Nord Italia, se ascolti la città di Sassari, nord della Sardegna che vi fa chiamate e si sintonizza in ascolto, K. Vieni qua a sposare. No, negativo. Matrimonio e mare, facciamo così quest'anno. Gappa, dove vai? Vieni a Sirius al mare, a Costa Rica. No, negativo, vado in viaggio. Ma quest'anno mi faccio un giro. Ascolta, sto parlando con un amico, comunque dimmi chi sei qua, coordinate del Nord Italia, comunque. Un abrazo. faccia? Sì. Tanti canale 45. Pomeriggio prima di uscire c'era una bella propaganda che c'era stato un bel casino. Hai visto comunque che ci siamo arrivati già? Sì, hai. Sono una grossa soddisfazione per me. Lo credo, sì. Con quell'antenna sì, tu, vabbè, comunque anche dalla macchina ce la fai, quindi vuol dire che già va bene con l'antenna. La macchina è un po' di discorso, qua è una cosa ancora, eccetera, in una grossa soddisfazione. Thank you. ho capito, dai, dobbiamo trovare un lavoro ancora, e ce l'ho anche io fatto così, però io c'ho il 10x, se non le pissi, non ti garantisco che non ricevo splattere, battimenti zero, non ne ha, in confronto io ce li ho tutti due, c'ho il 48 normale e c'ho il 10x, il 10x è molto migliore per il fatto degli abbattimenti che prendeva il 48 normale, poi per il resto il 48 normale è buonissimo, non è che c'è anche la linea, è forte come apparecchio, ben robusto diciamo, però l'unica cosa che c'è è che per gli abbattimenti. Microcircuiti, quindi non ce la fai se non c'hai le attrezzature giuste. Thank you. c'è l'imbarazzo della scelta, se vuole mi posso pure no, ma non me la fa di nulla. Se c'è un'acqua da parte normale, Ale. Io comunque lo vorrei fare. Per la macchina di mia però poi non la uso mai, in effetti, no? Cosa lo faccio a fare? E me lo vorrei far fare col massimo della potenza, di modo che non uso nulla, e lo uso solo con i baracchini. Mamma mia, già. Quanto lo vuoi fare con il baracchino? Solo che non devi mettere lineare né niente, dai, per riuscire bene. Come ti va, lo pago così. Solo che quando è mi abbassava, ma io sto dicendo, se per usare solo un apparato, dare un po' di potenza in più e via. No. No, i due no, già escono, ma non è come vorrei, da cui prendi anche fino a 10 va bene, ma 20 sono un bene, 20 la radio la fa, non la fa bella. Deve andare intorno ai 10-9 così, non di più. Quello è quando devi attaccare che cosa, ma se non devi attaccare niente. Sì, lasci di certo, perché con quanti escono quei baracchini che fa cosa, foglie elettroniche, quelli lì. Mentre c'è una bomba, c'è nulla. Ma sicuramente gli applicano qualche amplificatore, qualcosa dentro, se fanno qualche modifica lì tipo amplificatore eccetera eccetera, qualche scheda piccolina così, ma cioè a parte di così è un pericolo, perché poi magari non ti esce bene la radio, mi è capito, e te lo so come vedete, ce l'ho la regolazione, quindi lo so, se io aumento più di quel tanto la radio non la intendi più, gli rende bene, no? Cominciamo a fare quello, poi lo so come li fa. Ma noi qua non hanno cambiato i finali, quello lì cambia i finali, lì mette proprio i finali più potenti, capito? Non so per quanto ne valga. Sì, io infatti era una supposizione così, stavo dicendo, non è che dovrebbe fare, ma adesso stavo pensando di una cosa del genere, ma poi cioè, infatti c'è un riflesso tra le sia mille luci. Ma qui abbiamo il cinghiale, lo sai com'è? Sì, io già lo so. È una coppiata micidiale con quel 747. L'ho detto io che era così, l'ho portato io qua, 747 l'ho portato io per primo, l'ho detto tutti altri anch'io che era un buon lineare, infatti si è abitato Mezzazà, Sare Alghero, insomma un po' tutto. Ciao, bye bye stranger, da dove? Sisi, qual è la tua Sisi? Noi Italy, Sardinia. Ma chi la Cina? Ma la Cina, soprattutto con quel tipo di radio lì, sono una cosa da cereale. Tanto dalla Cina sarò chiamato. Ma lo cinese. Cina. Ascolti Italia. Italia Sardegna fa chiamata, lo dico. Calcio un cinque. Già abbiamo il barbaro, no? Ah no. Sassa tua uccide c'è Sassa, raga. No, penso. Bye bye stranger. Goodbye. facciamo una visita in tutta la San Fede che ti fa bello. Vai. Non l'ha detto. È un punto come apparecchio. No. Pronto, pronto. Sì, è più o meno come il gara, sì. C'è la base, là. Pronto il gara, sì, quello, diciamo, la macchina. C'ha frequenzimetro tutto qua, c'ha le stesse funzioni del mio, più o meno, perché mi pare che non abbia letto queste cose qua, ma che si riesce. Ma un biglietto come? Sarola, c'ha pagata, è un casino, è un casino. Cazzo, sto pensando ancora con la ragazza, tu, cazzo, mi ha rotolato la barba. Ma che andate facendo? No, non si è sbattuto a me, si è sbattuto la macchina che c'è dietro a me. Si è sbattuto praticamente, sai cosa hanno fatto? Era al mare, non con gli amici. E ha perso le chiavi del, come si chiama, blocca ruota, diciamo così, blocca disco, là, ce ne presenti i buchi di blocca disco. E non la trovavo, allora per tornarsene a Sassi gli ha dovuto praticamente prendere un... Gli hanno prestato un coso, come si chiama? Un zone con la mazzetta era spaccato, però spaccando l'ha stortato un po' il disco. Stava salendo al Sassari, era di quelli che portavano le pizze, c'era a fare delle pizze, stava salendo al Sassari, è andato a frenare, non gli ha frenato il freno perché c'era il disco storto che si faceva la macchina. Come aveva un ragazzo, un ragazzino, un vent'anni c'aveva, una ventina d'anni. Cazzo, l'osso del gomito non lo voleva visto. Cazzo, che sto qua per dice, te la fa una sigaretta, ma le dicendo, vai, detto, vai, per favore. Ma non mi fa nulla, lo rilassa, vai, cosa rilassa, gli dai la sigaretta, lui si lo vede che cazzo di mare dai la sigaretta. Dopo, praticamente, stavo posizionando in terra perché l'ho tolto dalla strada, praticamente come si è sbattuto, la moto è andata a centrare la carreggiatura, ci si torna andata a corsia, cazzo l'ho preso, l'ho portato subito fuori dalla strada, che se ne passava anche ma che lo gattegava magari, ma non male è riuscito a alzarsi e l'ho accompagnato, l'ho fatto appoggiare terra, l'ho fatto sdraiare. Una volta che l'ha sdraiato, cazzo, si avvicinavano tutti, fai così, fai cosa, non lo toccare, detto, scusa, se lo sto toccando, se non lo faccio con condizione di causa, non so fare, quindi allontanatevi tutti e fatelo respirare perché sta già male. Tratto l'osso, cazzo, c'è un osso del gomito, praticamente, cazzo, fuori, mamma mia. Non l'ha giù, ha detto, non ti muovere, mi fa male il gomito, sì, forse fa male la schiaffa intera, non ti muovere, non lo muovere quel braccio. Chiama in italiana, chiama 118, stanno tornando la faccio un giro a Portotorres, così per chiamare 118 italiana, poi me l'ha passata e gli ho detto di mandare l'ambulanza a Portotorres che era più vicino perché è successo dopo Ottava, dopo il semaforo di Ottava lì è successo. Era prima che non frenava la moto, ma mi sembra un po' strano, cavolo. Sicuramente ha spaccato il disco, ma cioè, se non frena con uno deve frenare con l'altro pure. Evidentemente tanto per me stava correndo, deve essere una scusa perché tu non con la moto non freni col freno di davanti. Ma io perlomeno per l'esperienza che ho io prima uso quello di dietro e poi quello di davanti gli do qualche colpettino. Non uso mai il freno di davanti per frenare il corpo, se no ti pizza e la moto si fa carici. E tu sei alla farfalla. Quindi secondo me stava solo scorrendo perché la ruota di dietro della macchina, tu devi vedere come l'ha spostata, ti sembrava sterzata. Sicuramente cioè, non lo so, stava correndo. Vabbè che chi ci so, anda neppure a un freno, non ti credi che lo cambia nel subito se si barra che tu da dentro. Ma poi la gente che fa questa c'è un perdere. La guida della mamma, ha voluto telefonare la madre, il telefonino. La guida della mamma finché rieni. Ma signora, non faccia così che se no l'ho fatta pensare, non c'è nulla. Non faccia nuda, cioè non sei più occupato. Ha solo in braccio, appena appena riesco a sticcare, gli ho detto. Comunque, diciamo che gli è andata bene, però l'ho visto, ha fatto un volo, ma un volo alto, l'ha sbalzato, l'ha fatto volare, poi c'è caduto in terra, di colpo rotto là. Avrà solo sentito un cade, ma avrà. Io Liliana e Marco l'abbiamo visto tutto davanti alla macchina rotolando, capisci come lui si è sbalzato, l'ha sbalzato in avanti, è andato più avanti della macchina mia, qui l'abbiamo visto tutto mentre rotolava, da prima in alto e tu mentre rotolava in terra. Ma come era? Molto grossa era? No, un motorino, anche tipo una SR così. Piccole che portano le pizze, quella che portano le pizze, c'è così. Ma proprio è un ragazzo alto, eh. Ah, te Mario Lì. Ma non sa stato parola. Che cosa c'era scritto dietro? E anche pizza, non so che cosa, c'era il numero di telefono, però non è che si è spaccato tutto il bauletto, quello delle pizze si è tutto crepato, come gli ho sfogato in terra, no, era l'armare. Infatti l'amico era dietro, mi ha detto, cazzo, devo andare molto con lui, ma non male, se non si macchina con gli altri. E detto, io di solito ero molto con la vaga, se ci fermano poi ci faccio una multa. Allora, appena te la darà giù, e dice, cazzo, proprio c'è avuto un mazzo di cose, perché quello che c'è dietro si fa sempre più male, perché uno, quello di davanti, riesce a mantenersi al manubrio un po', dice, ma quello di dietro vola un po'. Guarda, se è un ragazzo un pochettino alto, hanno già messo un preso, guarda. Alto, magrolino, 19 anni. E vabbè, ho letto delle pizze. Gialla la moto, vero? No, non era gialla. Era forse nera, non era blu notte, ma non è che, anzi in questi momenti non è che guardi queste cose, però non era gialla, quello sono sicuro. Diciamo che sono dovuto stare un attento, ho dovuto sganciare il casco, però non gliel'ho tolto del tutto, l'ho solo sganciato, quando poi il 318 l'hanno tolto. Ha detto, hai trovato qualche cosa sotto? Niente, ha sbattuto la testa. Ha detto, no, non c'è niente, gliel'ho sganciato io il casco, ma non gliel'ho tolto perché non c'è nessuno a dare una mano a fare la testa. E no, vabbè, ha fatto bene, non ha detto cosa. C'era Sandro Sale, vabbè tu non lo conosci, che era acceso prima. C'era Sandro Sale come 118, con l'ambulanza medica, la medica. Allora sicuramente già se non ha visto mai ha visto se è tutta Sara. Lui ha detto non mi ha funzionato il freno. Mi scusi, lui non mi ha funzionato il freno. Se no niente, tu se ti sei fatto male tu. Io l'ho visto tutto in piedi, davanti l'ho visto. E dopo quando lui diceva quello della macchina, c'aveva una bambina piccola, gli faceva male il collo adesso. C'era una bambina piccola e si è giurito. Io... E mi arriva il si è fatto male a mettina minore, ma l'assicurazione. Probabilmente era già assicurato. Perché avanti? Si è ascoltato in isola della Sardegna, città di Sassari, che fa chiamata Brecco. Buona giornata, la isola della Sardegna si va ascoltando al centro della Spagna, operatore Giulio, chiama Cambio. Campa Giulio, ti ascoltiamo al 100%. Ti ascoltiamo al 100%, buona standard, mia hermana. Ha pensato, grazie. se fa comprare da un'altra persona, non è che se fa, ma poi io tanto, a me non mi c'entra nulla, ti manca a te qualcosa ti serve di stabilire di Dio. È contento, noi siamo felici. Ma noi siamo più furbi di lui anche. Ma le fanno anche lì quelle radio, le fanno la tutta parte. Non ho sentito che anche a Como lui le fa. Prima le facevano solo in Sicilia, Sicilia e Napoli, non le guardia nessuno aprire. Buon appetito. Ma se sa si la mangiano? Già, bisogno. Campanello per gli asmesti due sale, non è che... Perché molte volte con le feci si contagiano, ma ci sono sale che gli arrivano. Avevamo chiesto al veterinario, adesso non lo facciamo niente. Campanello. E non si gestisce anche per mangiare? No, non si rispetta uno con l'altro. Vedi il fatto nel burro. Quando eravamo due, cosa faceva? Chi tu andava era lui e chi te andava, andava a vita di Chito. Cioè, si invertiscono molte ruoli. E tanto che magari vanno tutti e due insieme a mangiare la stessa sala. Sì. Se no si bisticcia. No. Tu hai gira, lui aspetta magari e poi mangia lui. Aspetta, ma poi ne hanno due, ne hanno anche. Però se mangiano tutte e due la stessa cosa, se ne hanno una per lui e una per lei. Titi si è preso la bottiglia quando le vede fare spoccolazione, c'è questo frigo che sono le fili di miagola e vuole il latte anche lì. Le mette il latte bianco con i biscotti di latte di Romano. Le biscotti e ne poco di pezzalini, io non le metto, certo un biscotto di ferro, le pezzalini minori e vedo che si rimangia. Il latte ci ha continuato a dare perché mi fa bene, ma i biscotti ne ho messi una volta, infatti io ci voglio anche se non ne ho dato. Chi è avanti? Chi è che chiama? Attenzione, binario 45, se ascoltate la città di Sassari, nord della Sardegna che chiama. Mio fratello Carmelo, senti Sassanonimo, coordinate Novi Ligure, capo. Chi è Carmelo? Carmelo Macista, tu sei. Ma cosa non è lui? Attenzione Novi Ligure, se ascolti l'operatore doppio rum della città di Sassari, nord e Sardegna. C'è la buona bomba qua, Pensa a me. Proprio bella chiara la radio, forte, da gordosa. Sono dei maestri, sono. La bagnata. Ascolti la città di Sassari, sull'isola galleggiante della Sardegna, Gabba. Bergamo. Calcimento stasera, una spontanea stasera. Grande isola, si ascoltate. No, oh, fu fortunato perché stava la polizia di largo. Aggiungete non l'hai sentito. No, non hai capito. Si sente che era l'atteggiamento, io sono sempre nuovo qui, che dice che chiama, ha detto ma allora c'è il canale sbagliato. No, magari chiama in ora di riprendersi e non coincide la storia. Capita da chiamare e chiamare, non risponde mai nessuno, poi avrete detto anche tu, hai detto che chiamato e non mi sei sentito. Ma chi lo sa cosa ci sia nell'aria, Domani sera. Infatti io mi ero sul 21, ho scanalizzato la mattina, brutta gente che ho risolto subito. Io ho detto bene o male, se non c'è nessuno c'è propagazione, quindi fermo. Con la modulata me la faccio lo stesso. Così. Quando c'è niente, c'è niente, se lo chiudo non è che poi mi ha tolto il ricevitore, magari mi ha scolto il ricevitore, ma anche lì non c'è più molto in giro di corso, sono tanto che non sento più radioamatori, prima mi ascoltavo il link, capito? Però non so se ne tocca nessuno. Probabilmente tutti quanti vanno in ferie, vanno al mare, cose, quindi non è più come... Marcolino è venuto, non mi pare le pc ti mandato. Ma è ancora deluso? Lei un po' si è spaventato per quell'affare. Beh, non l'ha mai visto. L'ha vista tutta buona. No, ha detto che non la volete sentire parlare, di non parlare di più che se vuole dimenticare. Ah, dico, ma è cosa amara, dai. Quando uno è bambino ce l'hanno. Beh, no, non è già, non ha mai visto, purtroppo. Uno se c'era già in mezzo come tu, eccetera, eccetera, ne hai visto di che cose, lui non ne sa. Lo so, però, diciamo che è rimasto a me perché un po' le ha fatte effetto, io non so se riesce a dormire stanotte. Io addirittura, ma non pensarci più. Io adesso si addormenta per ciame, venite, mettiti a fianco, Marco, là, nel tuo posto, no? Che qui c'è caldo, vai. A me non è che mi impressionino più di tanto, dico la verità. Ehi, c'è cosa così a vita lì? Così. Una volta c'ero chiamato per un incidente sulla strada di Alghero, vicino... Non Alghero, come si chiama il paese che c'è prima? Paese prima di Alghero, come si chiama? Ma quella stava... E vabbè, comunque, già ben capito, non mi viene a nome. C'erano chiamato in un volo, c'era scesa una macchina, una macchina Honda con quattro ragazze dentro. Siamo scesi giù, Edoardo è sceso con le corde, siamo calati, ci abbiamo portato giù la parete, fatto prendere una, come era in terra, come se avessero messo la mano sotto la testa, è fondata. È la testa sfondata. Lo so. Allora, quando vedi soprattutto ragazze come lì ci rimane un bel male. Erano quattro ragazzi la macchina, anzi, quello che c'era dietro mi ha detto che ha visto volare in pizza da una parte all'altra. Ma non si sono fatto un manculo. Sì, in due si sono salvati, due sono morti. Lì dietro sono tutti da morto. Ma che cavolo hanno fatto? Come cavolo stavano guidando queste qua? Hanno sorpassato a tutta velocità questa macchina che c'era dietro, mi ha detto quello lì che ha visto volare in pizza. Penso che non fatto va. E non va buono, infatti io dico sempre, se non si è all'altezza, lascia perdere, vai piano. No, non ci pensare nemmeno. Hanno sfondato il guardo lì. Praticamente con la parte di dietro hanno colpito una roccia che c'era sotto. Allora. Poi siamo andati a quelle più grave, quelle che c'erano davanti, erano dentro la macchina, però stavamo prima pensando a quelle più grave perché abbiamo visto che non davano segno di vita. Siamo andati a quelle del fuori per prenderla, io ho messo la mano sotto la testa. Adagiarlo sulla parete, invece ho detto uomo lei di Alice e dice che non c'è più perde. Vabbè, cosa devo fare? Purtroppo, certo che è brutto quello che è successo. Sì, certificata, vedi un po' di cose brutte. Dopo sto ragazzo che facciamo veramente a casa. Non lo so. Ma quello si deve fare, se uno va lì ci deve credere. E lo devo fare. Pazienza se si vedono certe cose. Io lo faccio qua che a me piace, anzi a me piacerebbe farlo anche come lavoro, mi sarebbe piaciuto farlo come lavoro. Purtroppo è quello che non si paga nessuno. No, nel senso che magari come è stato San Dossale, c'era un periodo che prendevano, allora la cooperativa che è entrata all'ospedale, quella che fa 118, ha preso un volontario con la patente di col K da ogni associazione. Io siccome ero il più vecchio, però non c'avevo la patente, e allora hanno preso a Sandro, che era uno degli ultimi, che però proprio era l'unico che aveva la patente di col K, è entrato lui. Allora sei mai pigliata? No. Non ci ho mai pensato, dai. Non è che non ci ho pensato tanto, non ho mai il tempo di fare il diverso, perché le lezioni le fanno sino alle 7:30, io alle 7:30 esco dal lavoro, quando ci vado, le fanno solo servire dalle 6:30 alle 7:30, io non ci posso andare. Quando ci vado. E poi un'altra cosa, che se mi prendo con la patente lì, poi mi fanno guidare il camion grande, mi fanno dire, ma tanto hai visto che mi sono guidato. Quindi lascia perdere. E forse lui. Collega, l'estate lavora anche se non mezzanotte. Io vai a dirglielo che c'è quella. Sì, ma se io voglio prenderla, devo chiedere di riuscire un'ora prima per dire. Il mio collega adesso ti finisce anche a mezzanotte, mezzanotte e mezza. Va a caricare i carri, apre i negozi, fornisce, infatti molta gente si è lamentata che va di notte a scaricare, fa casino nero, si lascia la radio accesa nel camion. Caricare di notte, poi va nei negozi scaricare di notte, così la mattina presto presto c'erano già pronte e cominciano, entrano alle 7 a lavorare e se la sistemano già. Già va bene così. No, va male. E va bene, con quell'amore cosa devi fare? Meglio stare e si incarezzare. Ma poi lui finisce a mezzanotte, non credere che poi se ne va a dormire e poi di domani mattina viene a lavorare da noi. Allora, ma è ripagato di tutto questo. E le lo ripagano le fine, invece di farci le 15 giorni, come facciamo noi? Da 2 mesi, un mese e mezzo. Come fa un misto? Ma a me non me la frutta, a me mi chiede il camminare, quando esco da lavorare sta a me tranquillo, non devo stare quello pensiero che diciamo, è di 10.000, guarda che ci devo andare a caricare. Giusto. Qui si è freo, A me, cioè, se mi avvene l'autorità per andare, se no, no. Poi c'è qualche cosa sotto banco della via, no? Anche me. Perché una volta mi ha detto, ma te c'è il tuo, te le sta ancora dando oltre le 8, poi mi viene a cavare. E a 100 euro. E a me mi dava 100 euro fuori in busta per... No, a te ti ha rumato, ti ha dato, dico, a me non me ne ha mai dato. C'era tu, collega tuya. Si è bruciata laggiù. Ieri da fa fuori in busta, così è. Vabbè già comunque se si fa il culo così, diciamo che cioè, se è proprio così se le merita, raga. Sì, ma io non sto dicendo niente. Lui lo fa solo d'estate, io lo faccio tutto l'anno, c'è tutto l'anno da giù. Io lo faccio solo d'estate per lavoro qua perché c'è un solo più di lavoro. Proprio una guerra, ecco. E poi si lascia il telefono ancora aperto, acceso. Il telefono della ditta io una volta che finisco se lo mangio nel cassetto lo spetto per andare là. Lui se lo porterà a casa e se lo lascia acceso. Ma perché poi si lamenta? No, no, quando è chiamato non mi rompere il cazzo, se ti lamenta nel tuo giorno, ecco. Se tu sei lì che lo devo lasciare la se non è qui per via, tu la reperibilità era. Io se uno ce l'ha reperibilità del pitare anche un tanto al giorno, invece non ce l'hanno pitato. Se non lo chiamano le date di numeri. Sono capo di suo, no? E deve rivedere a te, no? Però ho voluto fare quello, faccio per te. Cioè, capo di due. Cioè, faccio per te, ti prendi tu le conseguenze. Non massillarmi. Mai su quale? Eh beh, certo che è così. E prima arrivarglielo contentino, si fa giù detto con la lancia e te, dopo si lamenta. Si lamenta? Cosa io? Non c'è io. Che ci posso fare? Dice. Se te l'avvocato si lamenta notte si fa, così non hai gara di travagliare. Sono capo di tu, lo dici a loro. Se lo guardano vai, se no. Nessuno ti trattiene, no? Una voce ha giocato solo a scaricare un negozio e questa qua si è faccia una festa. Lì è un gramma di cacato, ma cazzo te lo sapete te. Che la notte quando viene a scaricare fa un gran casino con il roller, lascia la radio tutto volume, lo sa che qua la gente deve riposare, cioè signora forse sta sbagliando la persona. La gran maleducata è lì che non si è venuta a vedere se ero io, se era chi, che se era qualche donato che lo faceva. No, no, è lei, è quello che guida il camion del turismo. Sì, allora io la patente del camion ce l'ho, lui ce la patente del furgone, ignorante. Chi è che chiama la Sardegna? Va, va. Attenzione, collega Arrivi di meglio di noi, forse parte più favorevole alla propagazione. Ti salutiamo, ti auguriamo un buon inizio settimana e 751 di nuovo la stazione doppio rumo in tandem con la stazione Pompolo. Ciao ciao. Allora, saluto per la parte mia. Consiglio, ciao ciao a tutti e due, e chi è anche altre modulazioni di propaganda. Buon inglese, buon inglese, sì. Buona continuazione di serata e buon tutto e ci sentiamo. Avanti pure per Pompo, così saluto lui e poi passo in a cuore X. Avanti Pompo, se mi ascolti. Attenzione, canale 45esimo. Ascoltate e sentite la radio Fabi, continuate di capo di studio chiamo, grazie, grazie. Eia. Eia. Eia, ci sei. Sì, buonasera. Stavo dicendo, però fa fare con l'esperimento. Buonasera. Mi ha preparato su Mattisi. Professore Daniel. C'è qualcuno sul canale 45 che vuole modulare con l'isola della Sardegna? C'è nessuno, riprende alle tue. Ciao. Dobbiamo arruolarlo, magari toccarà. E poi micidiale, capo, se si adatta bene, micidiale. Perché ti sentono forte anche. Poi io faccio la mano a pronto in tasca. Fa scambiare la ogni tanto come faccio io. E il microfono era senso. Quello che modula dalla parte. Sì, io te lo qua, Questo di tanto io la scambio pure. Un attimo di bianco, attenzione, binario 45, se ascoltate l'isola della Reggianza della Sardegna che chiama, è operatore doppio rum, avanti se ascoltate l'isola della Sardegna, cambio, nada de nada. Sì, allora si è abbassata parecchio, ma come si è aperta bene? Come sta a segnare, ma è basso. Quindi non te lo so dire, ma erano molti me. Molti? Io tu ma Massimiliano Vita, qualche numero così, così. Questo ha sprecato il bocchio, mamma mia. Ma cosa stai dicendo già? Ma cosa sa cosa avevi fino a poco tempo fa? Se non veniva poco niente da paura, già. Avete? Ciappa, e se non ci sei, mi sa che non ci sei entrato. Vabbè, non è che abbia spaziato moltissimo, eh? Ogni tanto c'è, per vedere se c'è qualcosa di nuovo, ma io l'indirizzo in meglio non è che vado a tutti, altrimenti sembra che se mi chiedono l'amicizia non è che vado a tutti, vado a chi ci intende e basta. No, ma non deve darla, controllare non è che deve dare nulla, no? No, io sto parlando di quelli che mi hanno chiesto l'amicizia, che io non conosco, che se sono scelti non li conosco, capito? Ciao. A me non è che me ne interessa niente, qualcuno l'accetta, qualcuno no, non è che... Non li accetto, non accetto tutti. Io sono uguale. Ciao. Attenzione, binario 45, se ascoltate il doppio rum della città di Sassari, Nord Sardegna, che chiama qua. Tutta. No, ma sì, non l'ho mai chiuso, no, perché molti chiudono, mettono l'occhiata e cosa, ma non ha fatto nulla. Quello è visibile a tutti, no, quello no, non ci tengo per niente, perché mi dà fastidio, cioè, perché non ho niente da perdere, da nascondere. Però per accettare certi non accetto molto facilmente, cioè, alcuni li accetto perché magari li conosco, eccetera, non me la faccio da, però alcuni ci vado un po' cauto. E anche io, a parte ti posso mandare e così virus. A me ci sono delle ragazze che mi scrivono tutti i giorni chiedendomi l'amicizia, non glielo dà perché non le conosco, mi pare in polacco, roba dalla scritta del nome, mi sembra un polacco. Già, poi un po' raccomandate. Magari te lo col nome di donna, questo è quello che poi ti si rappare il virus. Già, e noi che ti devi fidare assai, no? Solo chi conosco. Io ho problemi della gente che conosco. Io l'amicizia della gente che conosco, se no niente. Ma per pure Guido che è più sveglio di loro neanche. Non so, infatti sei tu, ma c'è quello che magari con distrazione ha, perché si piglia un virus per dire. Ma se è un buon antivirus, poi vedi da dove cavolo proviene e cominci a fare dire mamma perdonami. Insomma, ci sono molte altre cose da fare, anche lì al computer. Ma è vero che ti fai prendere per il culo a un scemo, no? Ma no, io non apro niente. Oh, vabbè, ci sono quelli che te lo mandano mentre stai cianciando, facendo, ti mandano il virus e ti rubi i segreti. È un virus buono, ma se uno ha un buon antivirus non ce la fa entrare. Dopo si sa bisogna acceso un cavolo di due, soprattutto se uno ha molto esperto. Pagare. Ci tengono a fare dei tuffi dolci. Ma le 10 amici tuoi invece lo possono fare, lo sai. Lo so. Ma a me per dire, a me, un'amica me l'ha mandata involontariamente perché l'avevano mandato a lì, poi mi ha mandato un'email e me l'ha rispedita. Allora, magari mangi involontariamente, non usami nemmeno. Sì, è successo così, infatti mi ha detto già, se c'è il virus, guarda, è colpa mia, te lo dico, perché io non ho avuto un virus, non me l'ero accorta. Ti ho mandato un'email e era proprio lì. Allora ha fatto, messo in quarantena e poi siamo riusciti a ritornare. Ma da poco un cretinetto ci ha provato, lo sai, ma gli hanno fatto male con una persona perché era molto più sveglio di lui. Vabbè, non così. quello che chiamava, avanti, avanti, chiama. Nada. Di Antonio. Ciao. E quella gente che fa un po' la cretina, ma quando ci ha fatto duro, allora comincia a mandargliene uno ogni secondo. Ti sentiamo, bassissimo, ma ti sentiamo, dai, vai. È l'operatore doppio rumo dalla città di Sassari, nord Sardegna, che ti supporto con la libera. Scomparso. Dove era? Era passo passo. Come era la rete dell'aereo? Se poco fa era una telefonata di lusso. Poco fa mi arrivava una bomba, dove vai? Aspetta. Attento Totò, se ascolti in Isola della Sardegna, il doppio rum che ti chiama. Nada. Grandi, Claudio. Dove la fare? Fidato. Ma sai che oggi abbiamo fatto una prova già? E che prova? Non quella che aveva accendo il televisore, lo sai. Qual è quello di casa? Se va a 2 litri. No, va, se va a 200. Però c'è il tranquillo. Ma ci vuole sotto il digitale, dura. Scende tutto. Tutto a prendere. Va. Già, tutto due e tre. Attenzione Claudio, attenzione al smetto, ascolti al centro abitato di Castellana Grotte. Peccato la ciabatta delle ciamette lì, le atte di tutto. Ha pagato. Sono veloci mi anche, da 300, da 500, da 1000 anche. Da 50, da 50, da 50, da 50, da 50, da 50, da 50, quella è l'ultima soluzione già per consumare un amplificatore di meno. No, quella è l'ultima soluzione, prendi un coso, no, un alimentatore da 80 ampere per dire, attacchi quello, ne prendi uno da 1000, da 1200 watt, così che si inverte e consuma meno, consuma. Di attaccare la corrente diretta. L'ha pagata. Quello funziona anche con la 12 dell'alimentatore. Con quella lì. E ti puoi fare anche la corrente di casa. Attacchi il baracchino lì. Tu vuoi fare? Puoi attaccare l'UDS, stanno vendendo anche i frigoriferi, quelli piccoli. Puoi attaccare il frigorifero alla macchina, puoi fare un sacco di cose. Quello che è quello, per la roba fresca a sera. Lo stanno vendendo già. Alimentato sia con l'accendisigari e sia con la corrente, con la 220. Se all'inverte l'attacchi, è un frigorifero piccolo. Metti dietro il cofano e c'hai l'acqua e ti metti la Coca-Cola, quello che vuoi. È buono. Ce la stanno vendendo già. E io li ho sempre cercati per arrivo di fine e non ho mai trovato. Io ci sono. Addirittura ne ho visto uno che scalda anche le bevande d'inverno. Ci sono, a Puglia che ci sono. Quello lì cavolo è comodo, che te ne installi dietro il cofano e via. Ma già lo so, ti metti il frigorifero, ti bolti i pipi di acqua, se non so dove viaggi, quindi che cosa. Va, ci sono già, tranquillo. Te l'ha comprato anche un professore che viene lì, vicino là, da noi lì che in officina eccetera eccetera, e se l'ha installato in macchina, perché lui quando c'è fuori serve per le medicine, per le cose, per l'acqua fresca, perché scordi anche medicine che ci vuole il frigorifero, se no si squagliano in macchina. Tu se l'ha montato anche per quello. Beh, ci sei più? Io ci sono, ma mi sento che ci andiamo a dormire. Mi sta prendendo la biocca stamattina, mi sono stato sorpreso per andare al mare, che siamo andati dalle 8, dalle 8 e mezza eravamo lì, ci siamo andati a lungo. Poi stasera abbiamo girato, quindi siamo stanchi. Buonanotte Gianni. Buonanotte, ci sentiamo, buon lavoro per domani, ciao ciao. Ciao ciao.